questa casa che freddo fuori fa. Il caldo di un camino mi ricorda un po' di te. Le tue parole vuote, ma piene d'ironia. Darei la vita per averti mia. Quei giorni spesi a scuola, fra tanti amici noi, quel ti accompagno a casa se lo vuoi. Se guardo fuori niente c'è, non è lo stesso senza noi. E quel divano senza te non ha valore più per me. La colpa è stata pure mia, mi sembra ieri amore mio. Le notti fatte di follia, tra una carezza, un bacio ed un po' di magia. Domani cambio casa, ti lascio mia città. Salutami il tuo mare, sai che il sole lì non c'è. Io vado vecchio amore, mio primo grande amore. Un giorno ti ricorderai di me e come mi dirai. Se guardo fuori niente c'è, non è lo stesso senza noi. E quel divano senza te non ha valore più per me. La colpa è stata pure mia, mi sembra ieri amore mio. Le notti spese a casa mia, tra una carezza, un bacio ed un po' di magia. Scalere montagne, rubere un tramonto se tu fossi qui. Ma per il momento io racconto al mondo che non ci sei tu, manchi tu. Un anno ormai è passato, la gente viene e va. Fermo per guardarti, mentre un taxi mi ricorda la realtà.